Il punto di Stefano Folli. Renzi fa un po' lo sbruffone come suo solito, ma non ha tutti i torti quando dice che certe iniziative della CGIL o certe uscite di esponenti della minoranza del PD servono solo a rafforzarlo in termini di consenso diffuso nel paese. La mentalità degli italiani è cambiata in materia di lavoro e non potrebbe essere diversamente in un'epoca di recessione permanente e con oltre il 44% della disoccupazione giovanile. Di fronte a questi dati colpisce il segretario generale della CGIL che afferma: adesso siamo più forti. Oppure assistere al lento suicidio della minoranza del PD che pensa alle sue tattiche anti-premier e non si accorge, o finge di non accorgersi, che sull'articolo 18 ci sono state delle aperture del governo, dei passi avanti che una forza di sinistra dovrebbe valorizzare come una propria vittoria. Si vedrà. Certo, una scissione del Partito Democratico avrebbe poco senso e non avverrà, ma il meno che si possa dire è che quest'area viene battuta da Renzi anche perché è del tutto priva di strategia.